loro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Sono qui seppellita dalle scartoffie, dalle mie scartoffie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché ogni settimana ne succedono sempre di più. Arriveremo a un livello di saturazione che forse metterò un cartello e andata via per eccesso di notizie, non so più veramente che pesci prendere. Tante ce l'ho in testa, a memoria, tante però ce l'ho qui sparse con ritagli, fogli, articoli di giornale, eccetera. Ma aiutatemi anche voi, come tutti i sabati, a ricordare quali sono le notizie della settimana e soprattutto a dire la vostra notizia e la vostra opinione su quella notizia della settimana che scegliete. 800 24 00 24 è il numero verde al quale potete chiamare tutta l'ora, quindi dalle 14:04 in questo momento fino alle 15, ma quali possono essere gli argomenti? Alla fine sono talmente tanti, ne avete così presenti, che è come se si creasse una specie di blob e è difficile poi estrapolarne una. Allora ve ne butto lì giusto qualcuna, naturalmente quello che sta succedendo nel Nord Africa, le rivolte, i tumulti, soprattutto in Egitto, che è una situazione drammatica, se considerate che è il paese arabo più importante, insomma una cosa a cui dobbiamo guardare con grande attenzione. Inutile dirlo, il caso Ruby, con tutti gli annessi e connessi, e poi i vescovi hanno parlato di disastro antropologico, però dall'altra parte hanno anche detto, ma tutta questa mole di intercettazioni, quindi insomma un po' mantenuti così in equilibrio per non cadere da una parte e dall'altra, e poi il furto della salma di Mike Bongiorno, che questa cosa è una cosa odiosa, il delitto di Via Poma, ecco. È un caso molto particolare, questo abbastanza sconvolgente, al di là di quale sia la sentenza, no? Che si riprenda una persona dopo 20 anni da un delitto che, se è colpevole, pensava di averla fatta franca, e fare quindi un processo e con questa sentenza di 24 anni di carcere. Cosa ne pensate? Questo è primo grado, poi c'è il secondo grado, terzo grado, eccetera, eccetera. Però, insomma, una cosa abbastanza particolare. Poi le primarie del PD a Napoli, questa confusione, chiederemo tra poco all'ospite e opinionista estemporaneo, come lo chiamo io, cosa ne pensa. Il rapporto Eurispes, che non traccia proprio un gran ritratto dell'Italia. Insomma, le cose sono moltissime. Fra l'altro, non dimenticatevi che da qualche tempo gentili collaboratori hanno creato la pagina fan su Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. E alcuni ascoltatori già hanno scritto alcuni commenti sulle notizie della settimana. Robert, per esempio, dice: perché non parliamo delle recenti sommosse in Egitto e Tunisia, quella strana analogia tra le apparizioni in TV di premier di quei paesi e il nostro, questa analogia. Poi sul delitto di Via Poma, Monica che scrive: una condanna a scoppio ritardato. Stefano Landi che dice: io nel mio piccolo qualche dubbio ce l'ho. E poi su invece il commento di Umbretta Colli del PDL, che ha detto in questi giorni a proposito del furto della salma di Mike, secondo me potrebbe essere un dispetto a Berlusconi. Robert, sempre Robert, non dico i cognomi perché non mi avete autorizzato, insomma, dice: ci scappa da ridere e da piangere. E poi Monica, che su per esempio la questione di Nicole Minetti, la consigliera della regione Lombardia del PDL, che sapete è implicata in questa vicenda del caso Ruby, Monica a proposito di questo dice che come deve comportarsi, deve dimettersi in questo momento. Dice invece Massimo: significherebbe dimettersi quasi come un'ammissione di colpa, l'insegnamento da parte della nostra classe dirigente è di non lasciare mai lo scranno, quindi dubito fortemente che lei possa farlo, ma la speranza è sempre l'ultima a morire. Questi alcuni commenti su Facebook, poi vi ricordo che la trasmissione la potete riascoltare sul podcast del sito di Radio 24, www.radio24.it, oppure direttamente anche su Facebook. Detto questo, che cosa ci dice che non ci sono più le mezze stagioni questa settimana? Ebbene, non c'è una cosa che rimanga uguale a se stessa. Se il chilo non pesa più un chilo, il chilo non pesa più un chilo. Il chilo, almeno quelle cose lì, diciamo numeriche, se così possiamo dire, almeno quel 2 più 2 fa 4, quelle cose in genere rimangono così per l'eternità. No, neanche il chilo. Pensate che il prototipo dell'unità di misura del peso ha perso 50 milionesimi di grammo, che voi direte, che cosa sarà mai? Invece è importante perché è un'unità di misura internazionale. Adesso si studiano dei rimedi, forse verranno presi, ho letto in una decisione nel 2015, quindi ci sarà un po' di tempo ad aspettare. E cos'è? Forse la lega di platino e iridio ha emesso qualche gas incorporato nel blocco metallico confezionato nel 1889, questo chilo a Londra. Forse sta succedendo semplicemente l'inspiegabile. Fatto sta, insomma, che il chilogrammo sta perdendo peso lentamente e inesorabilmente, e questo è un problema molto più grande di quello che possa sembrare. Insomma, questo prototipo del chilogrammo conservato arrestato a Parigi sotto una coppa di vetro dell'ufficio internazionale pesi e misure, non due pesi e due misure, proprio pesi e misure, è uscito dalla sua prigione dorata solo 3 volte nella sua vita, eppure qualcosa deve essere successo perché questa unità di misura internazionale sta perdendo un po' peso, e quindi il gran chilo, come è stato chiamato, non è più un gran chilo. Quindi è come un po' se io pesassi forse un po' meno voi, allora se sulla bilancia c'è quel numero, forse, insomma, non è chiaro. Altra cosa che ci dice che non ci sono più le mezze stagioni è una notizia che è apparsa su Repubblica.it poco fa e che è già scomparsa. Accidenti, come vanno veloci, vedete come vanno veloci le cose, che c'è una compagnia aerea nata che vuole soltanto hostess trans, solo transessuali, perché dice così possiamo dare finalmente un lavoro diverso da quello che in genere spesso sono costretti a fare ai transessuali. Poi invece c'è sempre, lo sapete dal rito iniziale che faccio con voi, qualcosa che ci conferma invece che le mezze stagioni ci sono sempre, le cose non cambiano. Anche questa settimana ha ucciso almeno una donna, un ex convivente a Salerno ha ucciso la sua ex che le ha dato una figlia di 13 anni, ma questo poco importa evidentemente, le ha sparato con una calibro 38. In realtà voi direte, ma non succedono solo in Italia. In Italia ci sono 10, poi guardiamo anche il rapporto Eurispes, 10 omicidi al mese, le vittime sacrificali, dicevo, spesso sono naturalmente le donne, ma anche in Pakistan, questa notizia che leggevo questa settimana, una donna partorisce la quarta femmina e il marito dopo mesi di tortura le mozza le mani perché è stufo di avere femmine, poiché questo criminale, oltre ad essere criminale, è anche ignorante perché non sa che il sesso dei figli è determinato dal cromosoma degli uomini, X o Y, che cosa gli possiamo mozzare, ecco, per questo errore che ha fatto. E poi anche vorrei parlarvi anche di pubblicità a proposito delle notizie della settimana. Insomma, diciamo che dall'inizio di gennaio mi è capitato, io vedo pochissimo la televisione per questioni di orari, ma le volte che la vedo ho già visto nell'arco di pochi giorni, meno di un mese, 3 volte dei prodotti diversi essere decretati nella pubblicità prodotto dell'anno. I consumatori l'hanno eletto prodotto dell'anno, ma siamo quasi neanche iniziato l'anno come hanno fatto già a declamarli prodotti dell'anno. Siamo neanche a fine gennaio, già 3 prodotti ho visto che sono prodotti dell'anno decretati da consumatori. Si vede che li hanno utilizzati durante il primo 2-3 dicembre, hanno già gennaio, hanno già deciso così. Poi c'è un'altra invece di pubblicità che mi inquieta particolarmente, che è questa sul prodotto usato, un detersivo per la lavastoviglie, che ti fa vedere delle cose terribili, no? Dice renditi conto che, una roba del genere, che nel tempo che tu usi la lavastoviglie, nei mesi, negli anni, si può essere creato, fanno vedere una specie di blob di grasso, di catrame, di cose terribili, no? Che io sto cominciando a guardare con un certo sospetto la mia lavastoviglie, dico tu che mi stai accanto, che sei così impassibile, puoi farmi questo. Insomma, bisogna usare quel detersivo per evitare questa catastrofe generale. Ma adesso voi sentite scartoffiare, girare le pagine, chi c'è qui? Signore e signori, il mio opinionista estemporaneo oggi è Michele Brambilla. Buongiorno a tutti. Buongiorno Michele. Era lì che naturalmente ho dato fastidio girando le pagine. Un po' molesto, diciamo, si aggiornava sui quotidiani di oggi, giustamente. Michele Brambilla è giornalista e saggista, ha lavorato al Corriere della Sera, è stato già vice direttore di Libero, vice direttore del quotidiano Il Giornale e ora lavora alla Stampa come inviato e come editorialista. Michele, il suo ultimo libro si intitola Coraggio, il meglio è passato, quindi sappiate, il meglio è passato, chissà cosa arriverà poi allora, Michele. Ma come diceva Karl Kraus, non aspettatevi troppo dalla fine del mondo, non abbiamo speranze neanche su quello. Neanche no, che ci sia qualcosa di originale alla fine del mondo, niente. Sembra davvero che tutto stia cambiando a una velocità impressionante. Io infatti giravo la carta perché almeno in questo voglio stare ancorato al passato, no? Sono affezionato ai giornali di carta, non li leggo ancora sull'iPad. Siamo in un momento in cui tutto cambia tranne una cosa da cui da 17 anni siamo bloccati, cioè si parla tutti di una persona sola, o bene o male, chi lo ama, chi lo odia, e sembra che il paese sia paralizzato da questa storia. Penso che ci siano molti ascoltatori che hanno problemi concreti di lavoro, di stipendio, eccetera, a cui far fronte. La politica dovrebbe farsene carico, ma lo dico senza... Come scusa dire, se ti interrompo, sì. Mi fa venire che ieri il rapporto dell'Eurispes denunciava che un terzo degli italiani, tantissimo, fatica a arrivare a fine mese. Il 35%. Sì, sì, non lo metto in dubbio, perché se vediamo gli stipendi medi di oggi, la disoccupazione di oggi, il costo della vita, lo paragoniamo a quello dei nostri genitori, forse sarà un luogo comune, ma davvero sembra che i ventenni, i trentenni di oggi siano la prima generazione che... Non che sta peggio, perché poi la tecnica, la sanità, le condizioni generali di vita sono migliorate per tutti, però che ha meno rapporto stipendio costo della vita, insomma, che sta peggio in questo senso dei propri genitori. Quindi sappiamo benissimo che questo non è colpa solo dell'Italia, c'è un contesto mondiale terribile. Però davvero quello che non cambia mai è che siamo sempre qua a parlare di questioni identiche. E ora lo vediamo, 800 24 00 24, qual è secondo voi la notizia della settimana? Io sto per farti una domanda, anzi alcune domande sconvenienti, sì. Michele, ma so che tu sei pronto a tutto. A tutto. Per esempio, secondo te è possibile che tutto questo tumulto in Egitto sia dovuto al fatto che è arrivata anche lì la notizia delle attività svolte dalla nipote di Mubarak? Questi hanno detto, hai capito, la nipote di Mubarak, cosa combina? E qui rivolta. Mi sentirei di escluderlo. Invece un'altra domanda abbastanza sconveniente, anche questa, è, secondo te è vero che nei presunti festini di Arcole si bevesse la Coca-Cola? No, perché anche pubblicità occulta, secondo me, che hanno detto che ne pensi tu? Ma adesso, a parte le battute, avranno bevuto anche la coca, poi un po' di vino che non fa mai male, eccetera. Mi sembra però importante questo dettaglio sulla Coca-Cola, perché c'è stata tutta una linea difensiva che ha voluto rassicurare non solo sulla non esistenza di reati, ma anche sulla qualità di queste feste, sul fatto che non ci fosse nulla di indecoroso, al punto che si beveva solo Coca-Cola. Quindi si è impostata una difesa che tende ad assolvere quelle feste, non solo dal punto di vista penale, ma anche dal punto di vista morale o della pubblica decenza. Questo è un po' così, insomma, vincolante per la difesa, perché poi emergesse qualcosa di diverso, anche se non fosse reato, ci sarebbe il contrasto tra una dichiarazione e un dato di fatto. 800 24 00 24, ci sono già alcuni ascoltatori. Prima della viabilità, Nicola da Milano, dimmi solo il titolo della tua, l'argomento, e poi ne parliamo dopo. Nicola, pronto? Pronto Nicola, ci siamo. Sì, grazie. Prego. No, io ero già intervenuto in altre trasmissioni tue. Ah, scusa, ho detto del tu, perdono. No, ci dobbiamo dare del tu, non ci mancherò, do io, non posso ricevere reciproca la cosa. Sì. Il problema è sempre quello di Berlusconi. Comunque questa volta non voglio inquietarmi come ho fatto altre volte. Inquietarci o inquietare te stesso, Nicola, non ho capito. Ma io sono già inquieto per conto mio, perché sono anche in mobilità, tra l'altro, quindi... Ebbene, questa è una bella inquietudine, certo. Tanto per dire. Comunque, a parte quello è un fatto personale, diciamo anche sociale, però sostanzialmente poi si rivela un fatto personale. Diciamo che l'intervento era solo quello relativo appunto al fatto che Berlusconi per l'ennesima volta è ancora intervenuto a una trasmissione in diretta. C'è un quotidiano chiamato Il Giornale, sì, che è di proprietà di Berlusconi, no? Se non vado errato. Allora, a questo punto qua io dico una cosa, ma perché il Presidente del Consiglio si sente in diritto di intervenire in diretta solo quando si sente toccato, diciamo, no, nel vivo delle sue, diciamo, delle sue azioni, quando poi il giorno dopo tranquillamente il direttore del giornale, o chi per lui, può mettere un bellissimo articolo in prima pagina a caratteri cubitali, dove appunto potrebbe tranquillamente ribattere alle cose dette nelle trasmissioni. Cioè, io non trovo etico, proprio non trovo veramente etico partecipare a una trasmissione, e soprattutto non capisco perché lo facciano passare, perché Nicola, facciano passare le telefonate. Cioè, ti ringrazio, il telegramma è già finito, scusami Nicola, però vorrei girare, prima di fare il prossimo collegamento, mi pare sì, extraterrestre, e così abbiamo più vari punti di vista, vorrei girare a te, Michele Brambilla, questo pensiero che ho avuto nel sentire l'intervento del Presidente del Consiglio da Lerner all'infedele. Fossi in lui, ho pensato, io non interverrei, ma nel senso che farei vedere che sto facendo tutt'altro nella mia vita, che mi sto interessando ad altro, non che sono lì a vedere chi sta parlando male di me, allora intervengo, dico, con i bambini, e tu mi stai facendo questo, cioè uno preserva un po' anche la questione di dignità, di orgoglio, non facendo vedere che è lì a guardare, ma che magari è in un viaggio, è intrattenuto con qualcuno di più divertente, diciamo, e sta facendo tutt'altra cosa, sta leggendo un libro. Che dici tu? Sì, quella potrebbe essere una strategia anche difensiva molto efficace. Mi pare che però, per usare le parole di Iva Zanicchi, che è una sua parlamentare, Berlusconi sia esasperato, sì. E lei era presente. Allora, uno, visto dall'ottica di Iva Zanicchi, lo può considerare giustamente esasperato per gli attacchi continui, eccetera. Da un'altra ottica lo si può vedere molto nervoso, perché quello che sta uscendo effettivamente non è simpatico per lui. Senti, al di là di quello che appunto è l'intercettazione, se si dovessero configurare questi reati, eccetera, eccetera, ma anche le cose cattivissime dette da molte delle ragazze, e lui ci è rimasto piuttosto male, mi hanno detto che c'è sbiancato, come sì. forse possibile aver perso un po' il senso della realtà, nel senso, va bene, vai con queste ragazze, se vai, sono bellissime, quello che vuoi, eccetera, ma non puoi pensare che loro pensano di venire con te perché sei il più bello del mondo, no? Non mi sembra che proprio ricordi George Clooney, se proprio, senza nessuna offesa, però che dici? Ma sì, credo che sia una questione da affidare, lo dico senza offesa, per carità, per il Presidente del Consiglio, ma più uno psicologo che un politologo, perché evidentemente gli uomini che hanno molto successo a un certo punto non riescono più a controllare la corte che gli sta attorno. Partono con personaggi di spessore. Ricordiamo che Berlusconi all'inizio della sua avventura politica aveva il gruppo dei professori, no? Melograni, Colletti, Del Debbio, Adornato, giornalisti come Giuliano Ferrara, il Fido Gianniletta, Confalonieri, insomma la sua cerchia di consiglieri, almeno quella che si sapeva che c'era, era quella lì. Adesso è sorprendente vedere che invece la Villa San Martino è frequentata dalle mora, da questa signorina Minetti che ha 25 anni, francamente non si sa quali meriti abbia accumulato per diventare. È bella, molto bella, mi complimento con lei e con la mamma, ma insomma che diventi consigliere regionale è abbastanza sorprendente. E quindi sembra che sia arrivato anche lui, come tanti uomini di grande successo, a un certo punto in cui hanno il delirio di onnipotenza, ma non solo lui, ma proprio con le donne in genere. No, sì. Io mi dicono che ci è rimasto molto male per le cose che le ragazze dicono di lui, e la prima cosa che qualunque uomo della strada direbbe, ma insomma, che cosa si aspettava? Io lo metterei in conto, dico, vabbè. Io lo metterei in conto, ci voglio venire con te, poi tu di quello che ti pare di me, intanto. Bene, io direi adesso, mentre ci sono tantissime ascoltatrici e ascoltatori che stanno chiamando l'ottimo Giorgio De Luca, che sta prendendo le vostre telefonate all'800 24 0024, c'è Maria dalla provincia di Viterbo, poi c'è Claudio da Bellaria, Roberto da Milano, gli altri, io direi di fare anche il nostro collegamento, come sempre, extraplanetario. Riflessioni da Marte. Certo, a volte, guardando il globo terracqueo qui da Marte, attraverso il mio telescopio mi vanno un po' gli occhi insieme, ma dico, come fate voi sulla Terra a fare tutta questa confusione e proteste e guerre e bunga bunga e salotti TV in cui si fa gara a chi ha l'ugola più straziante? Insomma, un disastro antropologico, come dicono anche i vescovi. L'Italia, dicono ormai moltissimi, è un paese in declino. Ebbene, questo è dimostrato anche da questa ferale notizia inaspettata. Sentite un po', il più grande boss mafioso della storia, secondo la prestigiosa, autorevole rivista Time, non è un italiano, neppure italo-americano, bensì ucraino. Si chiama Semyon Mogilevich, soprannominato Brain Don, il Don col cervello, perché è estremamente intelligente. Insomma, l'Italia si è fatta scippare anche questo primato, come si potrebbe dire, questa eccellenza. Nella top 10 dei mafiosi della rivista Time, l'unico italiano è Totò Riina, ed è solo, udite, all'ottavo posto. Insomma, è davvero un paese in declino. Ma via, non buttatevi giù, poiché comunque a ben guardare si possono scorgere anche delle cose positive, su via. Per esempio, non è vero che l'Italia è un paese individualista, abulico, ripiegato su se stesso, niente affatto. C'è invece un grande, ripeto, grande desiderio di partecipazione, proprio come esortava a fare anche il poeta. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Appunto, di questo voglio parlarvi, di questa grande voglia di partecipazione in Italia. Per esempio, direttori generali TV e primi ministri che oltre gli spettatori vogliono intervenire e intervengono telefonicamente nelle trasmissioni televisive. Questo denota una grande voglia di partecipazione. Poi la voglia di partecipazione ai riti democratici anche degli immigrati. Guardate per esempio il flusso di cinesi incredibile che ha voluto partecipare alle primarie del PD a Napoli. E poi, attenzione, attenzione, dulcis in fundo, i 600 professionisti italiani che in questi giorni sono accorsi a Lugano, in Svizzera, per seguire un corso per evadere le tasse. Straordinario. Insomma, il consiglio principe dei luminari di questo corso di evasione fiscale è stato: in caso di controllo della Guardia di Finanza, negate, negate sempre. Ma sì, negate sempre un diffusissimo sport nazionale italico di grande successo, bisogna dire. E c'è voglia di partecipazione anche nell'inquinare insanabilmente pure il bel mare italico. Gli ultimi attivi partecipanti, secondo la Procura di Napoli, sono stati gli uomini di Bertolaso, che sversavano in mare ogni giorno tonnellate e tonnellate nel bel golfo di Napoli e nella costiera amalfitana i liquami dei rifiuti, il cosiddetto percolato. Ma come, mi chiedo, voi umani che venite a controllare se c'è acqua qui su Marte? Ma guardatevi le acque vostre, il mare vostrum. Ma come, non vedete che dono vi hanno fatto? Vi hanno inventato il mare. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. E possiamo finalmente tornare coi piedi per terra, ritorniamo qui sulla nostra bella terra e sentiamo subito Maria dalla provincia di Viterbo. Eccoci Maria. Pronto, buongiorno. Buongiorno a te Maria. Buongiorno, innanzitutto grazie per l'opportunità e complimenti a lei per la sua grande gentilezza. Grazie, grazie a te Maria. Dunque, volevo parlare in difesa di Berlusconi, sì, ma non di per se stesso, per quello che ha fatto o non ha fatto, sono affari suoi. Io sono una donna di oltre 80 anni. Di quanti? Per cui ragioni un po' a modo mio. Oltre 80 anni? Oltre 80 anni, 83 per essere sincera. Complimenti. Sincera. Allora, volevo dire che non è vero che Berlusconi sta rovinando le nuove generazioni, perché purtroppo sono state già rovinate dall'antico 68, quando è venuta la liberalizzazione sessuale, eccetera, eccetera. Ma non ci accorgiamo che gli adolescenti di oggi non hanno più il sentimento del romanticismo, non conoscono più la parola amore, ma conoscono soltanto sesso. Ma secondo te, Maria, scusa, secondo te allora anche Berlusconi è stato rovinato nel 68? È possibile questa ipotesi? Lì. Allora, voglio dire, ha perso il romanticismo di oggi, sì. Sono allora i 68enni di una volta e permettono ai loro figli tutto ciò che vogliono. E allora, ma secondo te, ma può essere che anche Berlusconi, magari vivendo in parte, un po' grande? Berlusconi l'ha fatto oggi. Adesso la stanza ci sta propinando. Ma era giovane prima. Le sue malefatte sessuali, a me non interessano niente. Io quello che noto è il grande, grandissimo atteggiamento proprio delle nuove generazioni. Delle nuove generazioni che non conoscono più la parola amore, sentimento, romanticismo. Il sesso è una cosa da raggiungere e non una partenza. Allora, divorzi, gente che convive, una volta lo sa come erano chiamati le donne che convivevano, erano chiamate mantenute, oggi invece sono persone normali. Maria, è chiarissimo il tuo ragionamento, anche se mi spiace, insomma, che il 68 si riversi tutta la generazione, il declino eccetera eccetera, mi sembra che sia stata anche una grande epoca, io non l'ho vissuto, insomma, però dico, mi pare che tante cose, dall'ecologia al femminismo, al pacifismo, siano venute fuori anche in quegli anni, no? Ci sono vari passaggi nella storia. Poi se tante cose possono essere degenerate, ci possono essere state derive di altro tipo, però mi sembra un momento anche di grande, tra l'altro, entusiasmo, passione, partecipazione, come diceva la Marziana, quella forse vera. Che dici, Michele, brevemente su questa cosa, perché la notizia della settimana non lo è. Brevemente, però, è un tema che è stato toccato da molti anche opinionisti, questo del di che si lamentano è stato il 68. Ora, io credo, lo dico alla signora per evitare di essere frainteso, che in nome della rivoluzione sessuale del 68 siano state dette anche un sacco di sciocchezze, tipo la coppia aperta e queste cose qua, per cui non la condivido tutta, il declino della famiglia eccetera probabilmente ha anche delle radici lì, ma quello che sta succedendo adesso non c'entra nulla con la liberazione sessuale del 68, perché questo, se è confermato, è il reiterarsi di una cosa vecchia come il mondo, cioè la prostituzione, chi ha i soldi che paga chi non ce li ha, la mercificazione. Io queste non sono neanche considerate come donna, sono dei pezzi di carne femminile, sono due cose completamente diverse dall'amore. Ma a proposito di questo, Michele, mi ricordi che il 13 febbraio ci sarà una grande manifestazione a Roma e forse anche in altre città delle donne, a cui hanno aderito anche diverse politiche, intellettuali, eccetera, per appunto protestare contro quella che definiscono una mercificazione del corpo femminile, ma anche al di là dei Berlusconi, anche attraverso la pubblicità e tutto quello che vediamo, i ruoli nella società che comunque rimangono più o meno quelli. Solo che il 13 febbraio, ci sarà una gran confusione in Italia, perché scendono le donne in piazza. Ci sarà la manifestazione pro Berlusconi, il PDL, il 13 febbraio. Ci sarà Santoro, che anche lui, cioè, praticamente non ci si potrà circolare. Se uno deve andare a comprare il pane, sarà tutto una gran. Tutto il 13 febbraio, mi chiedo io perché. Magari il 14 vogliono festeggiare tranquillamente, chi lo festeggia San Valentino, sì. Dicono anticipiamolo al 13. Comunque, Claudio da Bellaria, prima di una piccola pausa. Claudio. Roberta. Ciao, buonasera. Claudio. Ciao, io ogni tanto ti chiamo. Sto passeggiando in riva al mare. Sono qui che invidia, che mare è? Che mare è? Non sapevo che mi invidiavi. Ascolta, sì. Io volevo solo dire che a me il comportamento, cioè se una persona va con le donne, a me questo non è che mi importi tanto, più di tanto. A me se va con gli uomini? Posso non rispondere. Vabbè, hai la facoltà di non rispondere, sì. E però il discorso è che è l'umiliazione che noi italiani, cioè quelli italiani che capiscono, secondo me, capiscono, è l'umiliazione del comportamento di un primo ministro. Questo è il discorso che è grave. Quindi tu dici il ruolo è quello che conta. Il ruolo, perché un primo ministro, al di là di tutto, dovrebbe fare il primo ministro, interessarsi delle persone, quello che voi avete detto poc'anzi, cioè interessarsi della gente che non arriva alla fine del mese. Ci sono dei problemi e tutto è fermo grazie a lui, che in fondo non hanno fatto niente. Questo è il discorso più grave. È grave questo, è grave, senza poi pensare alle lotte intestine tra cose, cioè è pazzesco se uno guarda bene se passa ai raggi X la politica italiana. Roberto Giordano è sempre con voi, sempre il sabato dalle 14 alle 15 e anche adesso, e anche su Facebook, da quando è stata creata da poco, di recente, la pagina Non ci sono più le mezze stagioni, lì anche vi aspetto. Il mio opinionista estemporaneo di oggi è Michele Brambilla, giornalista, saggista e inviato editorialista del quotidiano La Stampa. Ci sono moltissime telefonate, però prima di passare per esempio a Roberto da Milano, visto che l'ascoltatore precedente ha detto bisogna parlare anche degli altri problemi dell'Italia, ha fatto qualche esempio. Avevo un po' accennato all'inizio al rapporto sull'Italia, quello annuale dell'Orispes 2011. Ebbene, fra le tante cose, vi leggo velocemente qua e là alcuni capitoletti. Per esempio, cala la fiducia nelle istituzioni, si salvano Quirinale e magistrati, affonda il governo, quasi spariscono i partiti, giudizio negativo sul Parlamento e in calo anche per la Chiesa. E dice l'Orispes, al contrario di quanto aveva denunciato il rapporto Censis di qualche settimana fa, dice non è vero che gli italiani sono a corto di desideri o di sogni, sognano di poter finalmente vivere in un paese normale dove tutto funziona, c'è lavoro, si mangiano cibi genuini e le città sono pulite e ordinate. Poi c'è per esempio la voglia di fuga dall'Italia, 4 italiani su 10 andrebbero a vivere all'estero, ci picchia soprattutto nell'età tra i 25 e i 34 anni. Poi dicevamo degli omicidi in famiglia, 10 al mese, vittime sacrificali, scrive l'Eurispes, le donne, ma questo ve lo ricordo in ogni puntata, mi sembra, no? Per dire che tutto è sempre regolare, tranquillo, sempre la stessa cosa in Italia, questa cosa non cambia mai, proprio ci dà una certezza. Poi invece su diciamo i delitti, i reati in genere, un reato ogni 5 minuti viene commesso in Italia, le province di Milano, Roma, Torino e Napoli sono in testa per il numero di delitti. Poi anche un'altra cosa interessante, per quanto riguarda l'eutanasia, 6 italiani su 10 sono favorevoli. Forse è tempo che i politici, per esempio, si occupino anche di questa cosa molto importante. Tanto polverone si era alzato col caso di Eluana Englaro, poi sembra che questa cosa venga tenuta lì in caldo, da sbandierare e da tirar fuori a seconda di che tipo di consensi bisogna avere da una parte o dall'altra. E 3 italiani su 4, quindi quasi la totalità, vogliono una legge che istituisca il testamento biologico. Chissà se c'è qualche politico che ascoltasse in questo momento, magari batta un colpo. Queste sono anche le questioni a cui tengono, per esempio, gli italiani. Dicevamo allora con gli ascoltatori, Roberto da Milano. Roberto, eccoci. Buongiorno. Buongiorno Roberto, sento la tua pacatezza, mi fa piacere perché io sono un po' di corsa. Prego Roberto. Allora, sì. Io sinceramente di sentire Berlusconi e tutto l'entourage di varie prostitute reali o non, sinceramente mi sono anche un po' stancato. Io la domanda che faccio, perché sinceramente non so come venirne fuori, è come facciamo a cambiare le situazioni? Perché se andiamo a votare ci danno delle liste che sono chiuse, noi possiamo mettere una bella crocettina come qualsiasi scimmietta ammaestrata e imbucare dentro nello scatolone, o se no possiamo non scrivere nulla, pasticciare un po' sulla scheda, evitare che venga rieletto non si sa bene chi. Senti, allora ti faccio questa domanda molto esplicita. Cambiare, cioè io vedo che si continua a parlare appunto di queste escort, da 20 anni a questa parte la classe media italiana si è impoverita in una maniera allucinante, la classe operaia, poverina, poi loro sono ancora messi peggio, si sono arricchiti altre classi che... Berlusconi, che dice essere secondo le varie situazioni operaio piuttosto che agricoltore, piuttosto che eclettico, non ha fatto, cioè non, da questo punto di vista non c'è stato nulla. Senti, ma dimmi una cosa, Roberto, se adesso prego. Ci fossero, se arrivasse, non si sa, a queste elezioni anticipate, tu chi voteresti? Cosa voteresti? Che faresti? Ma io andrei in vabbè, lo faccio già ormai da qualche tempo, comunque io vado a votare, annullo la scheda e basta. Spero che... Guarda, Michele Brambilla scuote la testa in segno di dissenso, di contrarietà. Roberto, senti, Michele, di pure la tua... Beh, dico una banalità, ma insomma, e poi non ci si può lamentare se le cose non cambiano, perché è vero che la legge elettorale di oggi... ti condiziona, perché i candidati sono stabiliti dai vertici del partito, non li puoi scegliere, c'è questo premio di maggioranza discutibilissimo, tutto quello che vuoi, però è anche vero che tutti i sondaggi ci dicono che il 40% degli italiani non va a votare, altri annullano la scheda, e dopodiché anche quella piccola possibilità che hanno i cittadini di intervenire viene meno, per cui direi che uno dovrebbe invece andare a votare sapendo che non esiste il partito, il governo perfetto, ma il male minore, esatto. Diciamo, in qualche modo ormai. Mauro dalla provincia di Lecce, ci spostiamo un po' più a sud. Mauro. Buongiorno. Buongiorno. Senta, Mauro. Io dico 4 parole perché... 4 è il conto, sì. Nauseato di tutti questi discorsi qua. Niente, io secondo me questa classe politica che abbiamo adesso non serve a niente, a nessuno. Perché loro, non, secondo me, non conoscono i valori veri di quelli che sono tutte queste belle parole quando si mettono a parlare. Non conoscono i problemi veri delle persone che non hanno, non che non arrivano a fine mese, perché chi non arriva a fine mese, bene o male, è fortunato. Che non hanno proprio lo stipendio, che non hanno da lavorare. Noi qui al sud stiamo disastrati. Ci stanno delle aziende... che che fanno delle cose assurde, non come quello che è successo alla Fiat, che è quello che hanno conquistato i nostri nonni, l'abbiamo perso in un voto di diciamo di fiducia, così, se così si può dire, insomma, per capire meglio quello che è. Ma ti riferisci a Fiat, a Mirafiori? Lì, a Mirafiori, insomma, cioè gente che qui va a lavorare, che sulle buste paghe gli dicono che gli danno 1000 euro o 1200 euro e poi gli danno in mano 400-500 euro, gente che quando gli arriva la cassa edile, no, che sono dei contributi che versano gli stessi operai, lasciano un tanto per cento dello stipendio alla cassa edile, che poi glielo danno dopo sei mesi, niente, che questi soldi li deve tornare indietro la ditta. Cioè, noi stiamo disastrati, e questi stanno a litigare, che quello va con le donne, che quello va con l'uomo. Grazie Mauro, ti ringrazio, sento il tuo sfogo. E nel frattempo, per allargare anche un po' i nostri orizzonti, sto leggendo anche gli ultimi flash d'agenzia, per esempio sull'Egitto, un migliaio di manifestanti sta tentando, di pochi istanti fa, sta tentando di dare l'assalto al Ministero degli Interni, la polizia ha aperto il fuoco, e quanto riporta la televisione satellitare Al Jazeera. E poi un'altra notizia, già ieri avevano tentato di assaltare il Museo Egizio, che è uno dei più belli del mondo, tra l'altro, se mai doveste trovare i momenti di pace, diciamo, andarlo a visitare. Il capo delle antichità egiziane, Zahi Hawass, ha affermato che è stato respinto in mattinata un tentativo di saccheggio al Museo Egizio. Peccato che poi con giuste proteste eccetera si debba degenerare in questo modo e con questi rischi, a parte i morti anche. Dicevamo, Michele da Bergamo. Sinda, buongiorno. Io, niente, aspettando il mio turno per fare la domanda. Sì, ti sei dimenticato. Ascoltando anche gli altri, poi mi verrebbe dire qualcosa a tutti, però vabbè, io ero partito per fare una domanda, tempo. Nel senso sì. Che Berlusconi, nella vicenda Berlusconi, voglio dire, ok, lui ha un ruolo centrale, però penso che altrettanto centrale sia il ruolo delle donne, che ormai... Delle donne? Delle donne, sì, perché delle donne che mercificano il loro corpo per dopo tutte le conquiste che sono state fatte dalle donne, voglio dire che c'è un regresso in questo senso qua, nel senso che non si può mercificare il proprio corpo. Perché poi sentendo i discorsi che fanno al telefono mi fa schifo, è vecchio, è grasso. Al sedere flaccido, ha detto anche la Minetti. Al sedere flaccido, dico, allora cosa ci vai a fare? Lo fai solo... sei venale, lo fai solo per una questione di soldi. Guarda Michele, io infatti non approvo tutto questo, anzi, anche se ci sono per esempio anche tra le donne, anche tra le femministe, proprio in senso stretto, quelle che si dividono in due, quelle che dicono appunto una mercificazione indegna, le donne vengono umiliate, loro stesse si umiliano, e altre che dicono ma chi può giudicare la libertà delle donne o anche degli uomini, insomma, di utilizzare come ritengono opportuno il proprio corpo. È un dibattito molto interessante, ma andremo fuori e di tantissimo. E invece, mentre sto per avvicinarmi alla satira di Spinoza.it tra pochi istanti, chiedo intanto a Michele Brambilla, che è lì pensoso, sì, di pensare proprio a una battuta breve tra poco, e sulle primarie di Napoli, se ci hai capito qualcosa, e anche sul delitto di Via Poma, che io ti dicevo all'inizio mi ha un po' sconvolto. Questa cosa mi fa un certo effetto, vedere che dopo 20 anni si va a riprendere una persona colpevole, innocente che sia, ma è stata per ora ritenuta colpevole, e si faccia un processo. Bene, possiamo pure galoppare velocissimi verso il Stefano Andreoli, il creatore di Spinoza.it, un blog che non può mancare dalla rete, una cosa fondamentale. Ha scritto anche un libro, Spinoza, un libro serissimo. Facci una fotografia di questa settimana, caro Buongiorno, Stefano. Buongiorno Roberto. Buongiorno a te. Eccoci qua. Tragicamente, purtroppo, come abbiamo appena sentito, continuano gli scontri in Egitto. Oscurati nel paese africano, oscurati Twitter, la TV e i social network. Sì. Poi è ovvio che la gente scende in piazza, cioè ovviamente se gli togli tutte queste cose che ci stanno a fare in casa. Gli Stati Uniti chiedono che non si usi la violenza, o quantomeno di aspettarli, perché ovviamente ora le chiedono come prerogativa. Ma abbandoniamo per un attimo queste vicende tristi, veniamo a cose più allegre. Oh, le cose di casa nostra, sì. Il siparietto tra Masi e Santorola. Famigerata telefonata in diretta a inizio di anno zero, io mi sono molto divertito. Santoro chiede a Masi: chiudo la trasmissione? Masi: no, la chiudo io. Santoro: no, dai, chiudo io. Una cosa un po' di cortesia, anche un po' tra innamorati, diciamo, questa cosa di amore. Schermaglia amorosa. Ma veniamo a altre cose di casa nostra. Bondi ottiene la fiducia, si salva, resta ministro. Già, il caso Bondi, sì. Nella sua arringa ha dichiarato: la cultura è stata uccisa dalla sinistra. Sì, ho sentito. quindi il suo può essere derubricato a vilipendio di cadavere, diciamo. Comunque non capisco tra l'altro i motivi di questa sfiducia verso Bondi, perché da quando è ministro le rovine sono raddoppiate, per cui è anche, sempre rovine sono infatti, sì. No, comunque sono aumentate, certo. Quindi è il suo contributo alla cultura è notevole. Veniamo a altri sviluppi dei noti casi. Ah, prima c'è questa notizia: muore Silvio Berlusconi, no. omonimo del premier, un operaio comasco che purtroppo è morto in un incidente in montagna. Muore l'omonimo di Berlusconi. Mi dispiace, ecco, questa la battuta mi dispiace, ma possiamo andare avanti tranquillamente. Sì. Caso Ruby, sempre queste cose allegre che ci danno da pensare. Caso Ruby, spunta un'altra minorenne. È quanto emerge dall'ecografia. Ecco, questa è una notizia notevole, che tra l'altro si associa a un'altra notizia. Talmente era minorenne, sì. Un esorcista ha dichiarato che la villa di Arcore sarebbe posseduta infestata dai fantasmi. Sì, l'ho letto. Sarebbe posseduta dal demonio la villa di Arcore, così come le sue ospiti. Cioè, chiudiamo con un altro paio di frecciate che sono cose vere, in effetti. Pizzaiolo palermitano inventa la pizza Ruby. È vero, l'ho visto, sì, con due mozzarelle sopra di due cose. È nata la pizza Ruby, te la porta a casa Emilio Fede. Il servizio è gratuito, può anche questa andare. È un po' facile. Questa chiuderei con questa notizia: se ordini la pizza Ruby, la coca in omaggio. Molto bene, grazie alla mannaia della censura su Stefano Andreoli, e via, ce ne liberiamo immediatamente. E mentre il nostro Michele Brambilla ancora riflette, tra pochi istanti sapremo, insomma, avremo delucidazioni del suo pensiero, direi di passare a quella che è la parola della settimana, che sottoporrò a Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, visto che si parlava dell'intervento, cara Valeria, di Berlusconi da Gerlerne, aveva definito la trasmissione un postribolo. Il postribolo, dici che è il suo postribolo? Oh, che cos'è il postribolo? Allora, intanto viene naturalmente dal latino la parola prostibulum, che significava originariamente prostituta, e solo in un secondo momento è passata a significare un bordello, casa di prostituzione. E la parola, non a caso, derivava dal verbo latino prostare, che voleva dire essere esposto al pubblico, essere in vendita, e poi per estensione prostituirsi. Poi naturalmente la parola, nella lingua italiana, la parola postribolo si usa fin dai primi secoli, e poi dopo è stata usata anche con valore figurato per dire luogo pieno di vizi, corruzione, immoralità. Ma come sempre voglio trovare anche in questo caso una conclusione positiva. Meno male. Ecco, sicuro. E in questo caso la conclusione positiva qual è? Ma tutta la riconoscenza per il Presidente del Consiglio, che in fondo con questi suoi interventi rimette in circolazione parole che ormai, come questa, sono note solo agli anziani, per esempio, appunto. Non diciamo anziano, che mi piace come parola, a lui. Beh, comunque, aulico è aulico, sì, solo i grandi, sì. E sono parole che i giovani non conoscono quasi più. Bene, un contributo linguistico, quindi, ecco, che riconosce Valeria Della Valle. Grazie, cara Valeria. Bene, grazie, arrivederci. Ciao. E adesso direi, in questo 52 secondi che ci rimangono, intanto vi ricordo la trasmissione, se proprio vi è piaciuto, avete perso qualche pezzo, riascoltatela sul sito di Radio 24, www.radio24.it, oppure andate nella pagina su Facebook, non ci sono più le mezze stagioni. Intanto, Michele Brambilla, quindi ti avevo anticipato e volevo una tua riflessione di quattro parole: una sulle primarie a Napoli e l'altra sul delitto di Via Poma. Primarie a Napoli, direi PD faccia Tafazzi segretario, perché facciamoci del male sembra il suo motto. Nel momento in cui Berlusconi ha le difficoltà che sappiamo, questi sono sempre più, come diceva Carlo V dei Sardi, pocos locos in malunidos, pochi matti e disuniti. Perché davvero mi pare che stiano facendosi del male da solo. Su Via Poma io penso che il problema non siano i vent'anni che sono passati, perché un omicidio non si prescrive. Certamente. E anzi, se uno è colpevole, l'essere stato zitto per vent'anni secondo me aggrava la sua posizione, perché vuol dire che non ha provato alcun rimorso. Il problema è se ci sono le prove oppure no. Molto spesso in Italia si fanno processi indiziari, ci sono condanne che non convincono del tutto, e quindi questo è l'unico metodo di giudizio, secondo me, vedere se quest'uomo aveva prove sufficienti contro di lui oppure no. Perfetto, proprio didascalico e telegrafico il nostro Michele Brambilla. Grazie, caro Michele. Il suo ultimo libro, Coraggio, il meglio è passato, ed è Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.